signore! E che sai? Siamo sulla nave. Poppa! Toccherà, siamo qui, c'è bagnato, non ce la metto. Vieni di là. Guarda. No, no, no, io sto da solo. Va bene, allora io sto di qui e te tu stai lì. Perché è un giorno intero che è il tuo compleanno. Ma sai com'è, generalmente è una colpa per la quale ognuno se ne prende un giorno intero. Oggi è il mio compleanno, me la prendo tutto il giorno intero. Il discorso è che oggi è il tuo compleanno, io ti ho portato a fare il compleanno all'isola di Wight. Mm-hmm. E allora, che cioè, 40 anni, 40 anni? 40 anni all'isola di Wight. Festeggiate all'isola di Wight. Certamente. Sai cos'è l'isola di Wight? Questa la cantano i banaloni come te, insomma. Ma chi la cantava questa canzone? Io non lo so. Ma penso siano stati... Le orme, i giganti, i... Maurizio Vandelli. Qualcuno gli aveva tagliato... I freni. I freni alla macchina, ci perché sta. Andava di moda. E poi, all'isola come di tagliare White. I freni alla bicicletta. All'isola di Wight, hai visto una chiesa? Sì. Hai visto una collegiata? Ho visto una basilica. Hai visto una basilica? Ma un'abbazia l'hai vista? L'abbazia so che c'è, perché l'isola di Wight è più grossa di quello che si è visto noi. L'isola di Wight, 140.000 persone ci vivono. Lo so benissimo. Me l'ha riconfermato la barman stamattina al primo pub che si è fatto. Incredibile. Ora qui c'è un po' di asino, ma siamo nella nave. Vabbè, la nave che ci abbandona nell'isola di Wight. Passeggeri, bambini, famiglie, signore anziane, insomma. Signorotte, cofane, ci sarà anche signorotta e cofano, insomma, ecco. Però ne è una è che è così, è che un'altra ventata di razionalità oggi. Abbiamo conosciuto tante persone per il mio compleanno, abbiamo conosciuto tante persone. Si è fatto il tragitto da Southampton all'isola di Wight, che con la nave arrivi a East Coast. Va bene, Landy? Dico bene. East Coast. Ok. East Coast propone poco e nulla, tranne che un ottimo pub bar, una signora simpaticissima e un normalissimo e banalissimo pub, come si chiamava? Fustenburger. Mi sembra si chiamasse Fish and Chips. Il pub si chiamava Ship and Castle. E poi siamo andati là, a ovest, dall'altra parte, West Coast, con un traghettino. No, non è un traghetto, una piatta tirata a catena. Che da una parte c'era il Cuten e da quell'altra c'era il Cureggio. Sì, una chiattona. Bisogna essere realisti. Ma io no, sì. Ma io certamente. Tu arrivai di là che la tirai il Cuten e poi tornai di là che la tirai il Cureggio. Il Cureggio. Una chiattona di un poco più di un minuto. Si attraversano le macchine con e a piedi. Siamo andati nella West Coast, che è già che sai? Alza la voce. C'è. Scusatemi, mi brucia la voce parlando per voi. Sala, È così, purtroppo una nave, per chi non è avvezzo, è un po'. Invece il mio socio la fa tutti i giorni. Southampton, West Coast, in nave. No, non è vero, fa perché per chiacchierare. Questo tratto è un tratto da un'oretta, come se tu vuoi andare da Piombino all'isola d'Elba, normalissimo, con un baretto, addirittura un ristorantino. Cioè se, allora, Piombino, isola d'Elba, in nave, io l'ho fatta svariate volte, non c'è il ristorante, c'è un bar che ti dà delle bevute a caso, dei caffè a caso, delle aranciate a caso, e qui invece c'è un bar spettacolare e anche un ristorante. Vediamo passare dei fish and chips. Sì, passano anche dei fish and chips, passano delle English breakfast. bastano le perenni, patatine fritte, soffritte anch'io da quante ne ho viste e sentite e mangiate. Passano hamburger, pasta cucina inglese di vario genere. Abbiate pazienza, non mi sentivano bene. E tragitto un'oretta, uno fa una spesa, chi c'ha da cenare, chi ha da mangiare. La cucina non è fondamentale né per pranzo né per cena, quindi un pasto veloce è normalissimo farlo in qualsiasi posto. E comunque, noi all'isola di Tibaite ci siamo stati, si è conosciuto un monte di gente, un monte di briachi, non solo inglesi, anche spagnoli. Abbiamo conosciuto i musicisti. Ma che scherzi! Che ci hanno raccontato un sacco di cose. Do you scherzi? Ma che scherzi, anche se do you know gir the microphone with for me? I gir perché I gir. I gir. Il Landi tu setta, parla pian io agir, vedrai. Ci sono dei bambini per i quali abbiamo attratto un enorme interesse. Non che a noi ci interessino quel loro, però abbiamo come essere l'orso Teddy, l'orso Pimpi. L'orso Pimpi è già come essere un gran peluche a forma di socio e di fumino. Ma in ogni caso vi diamo appuntamento a cosa? Alla puntata che vi spiegherà meglio che possiamo cosa è stata l'isola di Wight. Che poi l'isola di Wight non è per forza l'isola, non è per forza l'isola di chi ha negli occhi blu della gioventù. Quello è quello vanno raccontato chi va a tagliare i freni, chi è illuso di chissà che, chi probabilmente non ci ha nemmeno capito nulla. Quindi è un'isola collegata a una nazione con la quale prende un traghetto con le sue abitudini lontanissime dalle nostre, cariche di grande razionalità e logicità. Andate tranquilli, l'isola di Wight è carica di persone inglesi lontane dalle abitudini, dai format londinesi, anche dublinesi forse, per chi va in Inghilterra e per chi va in Irlanda. È una cittadina oltremanica, collegata al suo tempo per il tratto si è fatto noi, normalissimo, non c'è bisogno di avere accosti in Vaticano o chissà quale collegamento. O chissà cosa, probabilmente logicità, non ti fare chissà quale film, è così. E comunque noi dal traghetto che ci sta riportando in terraferma salutiamo e ringraziamo, perché perlomeno pare che in terraferma si stia per arrivare. Ho fatto anche la rima e sono lo stesso briaco di prima. Di rima ho fatto un'altra e ora la rima non mi viene più. Di conseguenza vi salutiamo e ringraziamo. Thank you. Yeah.